Effetto Mondo. I want to protect myself and protect others, and also because I want to make it be a symbol for people to see that that's the kind of thing you should be doing. Benvenuta Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao, buongiorno. Queste erano le parole. È la voce del nostro amico Anthony. La nostra voce, sì, Anthony Fauci, che insomma era un po' che non ascoltavamo perché la sua assenza si notava molto in queste rare ormai conferenza stampa della Task Force con Trump. Sì, sicuramente sì, tanto che in questo passaggio ieri ha preferito, anziché partecipare all'apparizione, appunto alla conferenza stampa della Task Force, dove ha parlato il capo della Task Force, che è il vicepresidente Mike Pence, e ha detto delle cose che sono state poi molto criticate perché è un po' ha lo stesso atteggiamento del presidente Trump, cioè nega alcune evidenze sull'aumento dei contagi. Anthony Fauci ha preferito un evento via Facebook, dove ancora una volta ha sottolineato che la teoria più test uguale più positivi non ha alcun senso, e ha ancora una volta ribadito, sulla scia della guidance del Center for Disease Prevention and Control, che la mascherina è importante, perché è un segnale non soltanto che io voglio proteggere te da un'eventuale mia positività, certo, ma che voglio appunto dare il mio contributo, quindi. Ma diciamo che Trump ieri si è segnalato invece, e oggi lo riportano tutti i quotidiani americani, perché ha di fatto minacciato tutte le scuole, le scuole pubbliche, di tagliare i finanziamenti federali se non riapriranno. Questo perché? Perché il tema, naturalmente tu l'hai seguito da vicino, voi a Effetto Giorno l'avete seguito da vicino, anche le scuole americane, le scuole primarie e secondarie, le università sono un discorso diverso, a settembre e anche prima di settembre, perché alcune aprono a partire dalla terza settimana di agosto, devono riaprire con una serie di regole date sempre dal CDC. Trump è contrario perché dice che questo è troppo costoso per le scuole, e ha detto appunto se non le riaprirete, ma in modo, diciamo, non seguendo le regole, non con presenza ridotta, io taglio i fondi. E il New York Times in particolare segnala la reazione sia del sindaco di New York Bill de Blasio, sia del governatore Andrew Cuomo, che è stato durissimo e ha detto adesso però è ora di smetterla di minacciare, perché non è un modo, lo ribadiamo ancora una volta, per uscire da questa emergenza, quella di andare avanti a colpi di minacce. E invece sulla questione delle università in particolare, perché c'è una rivolta all'interno delle università, Giulia? Perché due giorni fa Donald Trump aveva detto che avrebbe cancellato tutti i visti per gli universitari, che sono quasi automatici, nel senso che quasi sempre, tra l'altro, quasi nella maggioranza dei casi sono università private, quindi questi studenti pagano una in generale molto cara retta, sì, e vanno negli Stati Uniti per studiare, soprattutto dall'Asia, ma non soltanto, in alcuni casi anche da alcuni paesi del Medio Oriente e naturalmente dall'Europa o dall'Australia, e hanno un visto da studente. E Trump ha detto che se le università, come molte hanno annunciato di voler fare, faranno didattica a distanza, beh, allora questi corsi si possono seguire anche da casa propria sostanzialmente, ecco. Quindi toglierà questi visti. Harvard e moltissime altre università, che sono terrorizzate dal veder venir meno questa fonte di rette, hanno fatto causa, tra l'altro, subito, hanno insomma fatto ricorso, diciamo, ecco, scusate, non causa. Anche negli Stati Uniti c'è un complesso meccanismo di giustizia amministrativa, e vedremo un po' come finirà, perché Trump su questo ha ribadito che quella è la sua linea e vuole continuare su questa linea. Ci parli anche delle nuove misure in Gran Bretagna per reagire alla crisi? Sì, guarda, c'è il cancelliere dello scacchiere Sunak, che è su tutte le prime pagine dei quotidiani britannici oggi, tra l'altro per promuovere questo piano che lui ha presentato ieri in Parlamento, è andato a fare il cameriere, ovviamente per farsi fotografare, in un ristorante della catena Wagamama, che è un fast food asiatico. È stato criticatissimo perché, a proposito di mascherine, non la portava. Però molti quotidiani sottolineano quanto sia vincente la sua strategia di comunicazione. Ieri lo abbiamo detto, era stato anticipato questo piano, nuovo piano di aiuti, E poi i giornali ne avevano parlato, poi ieri è andato in Parlamento, l'ha presentato con questa fuori programma che sono i 500 milioni di sterline all'interno di questo piano da 30 miliardi di sterline per i ristoranti e i pub, che sono circa 130 mila nel Regno Unito, sono chiusi dal 20 marzo, erano chiusi dal 20 marzo, adesso hanno riaperto da una settimana. E chiunque dal lunedì al venerdì potrà, il piano si chiama Eat Out to Help Out, cioè andate fuori a mangiare per dare il vostro contributo e tutti potranno, i ristoranti possono, daranno il menù al 50% di quello che normalmente è e tutti gli avventori, bambini compresi, per un massimo di 4 membri per gruppo familiare, avranno uno sconto di 10 sterline. La cosa interessante, perché possiamo fare purtroppo il confronto con alcune misure Sì. scelte qui in Italia, è che in 5 giorni i ristoratori, e ricordiamo che il 90% dei pub servono anche cibo, quindi vale anche a maggior ragione per i pub perché l'alcol è escluso da queste misure, in 5 giorni i ristoratori avranno il rimborso di questi sconti che hanno praticato. Quindi potrebbe essere in effetti un bell'aiuto per un settore che occupa circa 2 milioni di persone e che è in profonda crisi nel Regno Unito come in tantissimi altri paesi. Giulia, mi togli una curiosità che riguarda la Spagna. Si parla Sì. espressamente di seconda ondata o di nuovi focolai, come per esempio in Italia. Può sembrare una differenza linguistica, però insomma noi ci aspettiamo una seconda ondata in autunno. Lì come viene affrontata questa? Hai ragione, insomma, le parole sono importanti. Non si usa questa cosa seconda ondata. Il titolo di El País è: i contagi aumentano al ritmo maggiore dall'inizio di maggio. I focolai, lo sappiamo, sono in Catalogna, in Galizia e poi nella zona di Aragona e ci sono stati 257 nuovi casi che, visto il livello bassissimo a cui è arrivata la Spagna, sono fonte di grande allarme. Però certo, forse anche loro hanno paura a usare questa parola seconda ondata, che invece, come abbiamo visto in Israele, per esempio, viene usata. Poi devo dirti, fa molto effetto per affinità, diciamo, culturale e linguistica ai giornali spagnoli, dati che vengono da Caracas, dal Venezuela, perché come se non bastasse già la situazione drammatica in cui era il paese. Il Covid l'ha peggiorata e adesso si parla di un 80% della popolazione che ormai vive in estrema povertà e il 30% dei bambini sotto i 5 anni sono in uno stato di denutrizione cronica. E quindi, insomma, il Sud America è sicuramente il Venezuela, ma sappiamo il Brasile, l'Argentina, ma anche il Messico, su que in questa in que in Già in condizioni economiche difficili si è aggiunta la pandemia e devo dire che c'è molto spazio sui giornali spagnoli per Sì. questi dati che vengono Anche dal Sud America. perché effettivamente proprio le condizioni sociali, le forti disuguaglianze in America Latina stanno accentuando, aggravando l'epidemia di coronavirus, già grave di per sé dal punto di vista medico. Abbiamo ancora un minutino, Giulia, cos'altro ci racconti in chiusura? Ho sentito, visto, ma prima solo un flash dalla Francia, Le Figaro, c'è questa bella foto della cattedrale di Notre Dame, che naturalmente è ancora in fase di restauro, e Giusto. la notizia di ieri è che il Consiglio Nazionale dell'Architettura, un po' il nostro, la sovrintendenza dei beni culturali nazionali, ha decretato che la facciata deve essere rifatta esattamente come era quella originale, Perfetto, quindi no certo. a tutti questi piani che erano stati presentati con grande fantasia. Di E poi modifiche. un altro flash dalla Germania, ne ha parlato Alberto Orioli, naturalmente su tutti i quotidiani tedeschi, le dichiarazioni della Merkel, che dice l'Europa deve veramente dimostrare in questo frangente che è unita come forse non lo è stata negli ultimi anni, perché soltanto così, solo uniti e quindi con lo sforzo di tutti i paesi meno colpiti dalla pandemia, riuscirà a avere lo spazio che merita in questo grande scacchiere globale dove sappiamo i due attori sono la Cina e gli Stati Uniti, poi naturalmente c'è la Russia e l'unico modo per non essere schiacciati è restare uniti. Perfetto, grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi con Valeria Bernardi regia, Danilo Litrani in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi, l'auguro di una buona giornata, ciao.